No? Allora, benvenute, benvenuti su Cabaret Voltaire, su Radio Exalge. Questa sera, l'ultima puntata della stagione, tra l'altro, ho deciso di invitare Giulio Raffaele che ci racconterà del suo progetto Silent Art Explorer. Quindi passo subito la parola a Giulio perché si presenti e ci racconti del suo incredibile progetto di collezionismo. Buonasera, benvenute, benvenuti. Sono onorato di questo invito. E presentarsi è sempre una delle attività più complesse che puoi raccontare un po'. Allora, aspetta. Chi sei? Quali sono? Cioè, come? Allora, chi sono, non questa lo so. Premessa. Questo forse neanch'io. Posso introdurre dicendo che io e Giulio ci siamo conosciuti a un opening circa, non so, 9 mesi fa. Settembre-ottobre del 2024. Ecco, l'anno scorso, e mi sono incuriosita perché appunto Giulio ha avviato questo progetto di collezionismo dedicato però solo ad arte emergente, quindi giovani artisti e artisti, direi non ancora appunto, come dicevi tu, entrati in quel sistema del commercio dell'arte, il più storicizzata. E quindi ho pensato fosse interessante discutere insieme del tuo progetto, proprio per dare anche un po' uno sguardo forse un po' più particolare su questo mondo e su questo sia del collezionismo che dell'arte, no? Oggi. E però trovo anche interessante proprio la storia del tuo progetto, perché tu non è che sei un artista, no? Cioè, ti sei approcciato a questo mondo in un modo particolare, cioè tu nella tua vita fai tutt'altro. Assolutamente sì, ecco. Non che il lavoro debba definire le nostre identità, però. Assolutamente no, ma io credo profondamente nel fatto che la nostra identità è ben distante dall'identificarsi con il lavoro. Per me è proprio un atto politico, sdoppiare ciò che facciamo come lavoro da tutto il resto che facciamo e che crediamo ci rappresenti. Per cui, giusto per dirlo, poi lo dico adesso così poi non lo diciamo più, però sostanzialmente io nella vita mi guadagno da vivere appunto facendo tutt'altro rispetto a ciò che ha a che fare col mondo dell'arte, perché in questo momento ho un incarico di esperto per la presidenza del Consiglio dei Ministri, lavoro come program manager nel Dipartimento per la Trasformazione Digitale sui progetti che vengono portati avanti con i fondi del PNRR, e fatto di tutto nella mia vita, cioè sono partito con una laurea in scienze della comunicazione e una tesi in cinema, per capirci, e oggi lavoro per la presidenza del Consiglio, quindi non so neanche bene io come ci sono arrivato. Però sta di fatto che ad oggi i soldi che guadagno li guadagno in questo modo, e diciamo che l'atto politico che io compio, poi appunto ne chiacchieriamo così andando avanti, è quello di utilizzare tolto tutto ciò che mi serve per campare, quindi per sostentarmi, per soddisfare i miei bisogni di base più le varie altre ed eventuali, il resto tendenzialmente lo uso per acquisire opere di artiste e artisti emergenti, qualche mid career qua e là, dove proprio non so resistere, e finanziare progetti artistici e culturali ad ampio spettro, quindi parliamo di residenze d'artista, oppure performance, spettacoli teatrali e così via. E poi un'altra cosa di cui parlavamo poco fa, che è la cosa a cui poi io tengo di più, che è un po' la parte che fa da collante, che è quella del cercare di contribuire, fare nel mio piccolo, contribuire alla creazione di una comunità dell'arte emergente, coesa e virtuosa. Quindi questo è un po' quello che faccio con progetto Silent Art Explorer, e cofondato nel 2020 con Aurora Rossini, che all'epoca era la mia compagna, e che condivideva con me, condivide ancora oggi con me, la passione per l'arte contemporanea e emergente, E poi ci siamo lasciati all'inizio del 2023, per cui al 2023 io porto avanti il progetto da solo. Ecco. Però la cosa divertente è che io trovo divertente perlomeno, è che in realtà, come direbbe il buon vecchio René Ferretti, io ho iniziato a cazzo di cane, sostanzialmente, a collezionare, diciamolo così, nel senso che ho... Però tu hai sempre avuto una passione per l'arte, o è un po' appunto capitato a caso, proprio per il, diciamo, mondo da cui vieni, no? Invece nel tuo campo lavorativo? Allora, io sono sempre stato esposto all'arte e alla cultura, perché ho avuto il privilegio e la fortuna di nascere in una famiglia che comunque ha sempre, fin da quando eravamo piccolini, mia sorella e io, ci ha sempre portati in giro per le capitali d'arte, musei, e sono stato esposto al cinema d'autore fin da quando ero ragazzino, cioè vedevo Bergman, Fellini quando ero bambino, quasi adolescente, diciamo preadolescente, quindi sono sempre stato esposto al fruire l'arte nel senso più ampio possibile. Però diciamo, la famiglia da cui vengo non ha mai avuto familiarità con l'arte contemporanea, men che meno con l'arte emergente, e ancora di meno con il collezionismo. Per cui appunto la citazione di René Ferretti veniva proprio dal fatto che a un certo punto nel 2015, quando a un certo punto mi sono reso conto, in maniera del tutto casuale, che le opere d'arte non sono fatte solo per stare appese sui muri dei musei, ma possono essere anche comprate, che arrivano sui muri dei musei perché qualcuno le ha comprate, sostanzialmente. Noi con le nostre tasse. Tendenzialmente. Allora ho detto, ah, questa cosa è interessante. E per una serie di casualità mi ritrovai una sera con un'altra mia ex ragazza, cioè nella relazione precedente, quella con Aurora Rossini, e lei mi presentò un suo amico che è un designer, si chiama Giorgio Scorzapriano, che, diciamo, come attività collaterale nella sua creatività, insieme a tutta una serie di cose che faceva, aveva realizzato anche un quadrittico che si chiamava Serie Solo, che io ho sempre interpretato come una rappresentazione minimalista geometrica del concetto di solitudine nella società contemporanea, nelle sue diverse manifestazioni. Questa è la mia interpretazione. Quindi vidi questo quadrittico che lui aveva a casa e dissi, ah, ma bello, ma vuoi comprarlo? Più o meno andò così. E dissi, ah, bella, dai, sì, lo prendo, ma non avevo idea di quello che stavo, è la prima volta in vita mia che compravo un'opera di, tanto neanche, diciamo, di una persona che, diciamo, è parte del sistema dell'arte contemporanea come lo intendiamo. È un designer che fa il suo lavoro e che poi in maniera collaterale realizza una serie di altre cose che potevano essere attaccapanni, nel vero senso della parola, perché ho visto anche gli attaccapanni che lui ha disegnato e fatto realizzare, e poi realizzava anche queste cose. Quindi ho iniziato così, veramente, ma non avevo idea di quello che stavo facendo, cioè non, fino a quel momento, e per ancora almeno altri 5 anni non avrei mai detto. Hai seguito un tuo gusto personale? Cioè, ti faccio questa domanda perché penso che per tanto tempo la figura del collezionista ha determinato un gusto e un valore nell'arte. Quindi, se penso ai connoisseurs dell'Ottocento, alla fine, come dire, hanno determinato un gusto nel collezionismo, e quindi, non so, ai tempi era l'arte lombardo-veneta del Cinquecento, per dire, e così, andando avanti nel tempo, è sempre stata una figura che, insieme a quella del critico, del gallerista, ha determinato Il valore dell'arte intendo quindi anche un riconoscimento per determinati artisti piuttosto che altri, no? Invece penso che oggi sia molto più difficile avere questo ruolo così determinante, proprio per il fatto anche che ci sono tantissimi canali in cui gli artisti possono farsi conoscere, farsi notare, insomma anche forse banalmente autonomamente promuoversi, no? E quindi forse anche la figura del collezionista in questo senso è un po' cambiata, cioè da come tu lo stai raccontando, per tua passione hai creato questa collezione e hai seguito il tuo gusto personale senza avere un intento anche di, non lo so, avere un impatto di altro genere su insomma, in questo contesto. Assolutamente, è nata come come un'attività che facevo semplicemente perché mi dava soddisfazione all'inizio dare spazio a qualcosa che rappresentava le mie emozioni. Quindi la questione della creazione, dello sviluppare un gusto è una questione importante, perché se come me non hai una formazione di, diciamo, accademica, di storia dell'arte, critica dell'arte e così via, io completamente a digiuno, nasce come diciamo, atto, possiamo dire, puramente edonistico e di rispecchiarsi dal punto di vista appunto di emozioni in ciò che hai nell'opera che hai davanti a te. Ma figurati che io all'inizio, quando poi avevo iniziato a frequentare le fiere e così via, molti posti poi ci arriviamo, perché infatti io non le frequento più le fiere, però è una mezza verità questa, comunque ci arriviamo. E io non volevo conoscere le artiste e gli artisti quando compravo le opere all'inizio, perché dicevo, io non voglio essere influenzato dal racconto dell'artista, perché l'opera mi deve piacere all'impronta, deve colpirmi, deve dirmi qualcosa, me ne devo innamorare. Ecco, io facevo questo, io facevo avanti e indietro le vasche in fiera, fino a che non mi innamoravo di un'opera, dicevo ok, oggi compro questa. Quindi era appunto un atto molto diciamo viscerale e edonistico. Poi è cambiato molto, in realtà è cambiato molto negli anni a venire. Ma perché succedeva questo? Succedeva questo perché io avevo iniziato a provare gusto, piacere, possiamo dire, desiderio di comprare opere d'arte, ma non facevo parte di una comunità, non avevo idea dell'esistenza di una comunità. Faceva parte di una sequenza di azioni, diciamo, di mercato, cioè semplicemente il fatto di un atto di compravendita, di un aspetto transazionale che diciamo, dava spazio al mio ego, no? Al mio desiderio di vedere, di appropriarmi, e questo termine lo decostruiremo dopo, di appropriarmi, di impossessarmi di qualcosa di bello. Però poi è cambiato completamente, questo è il mio punto di vista, negli anni a seguire. E ha avuto questo molto a che fare col mio trascorso personale, nel senso che appunto, tornando a parlare di lavoro e di come il lavoro ha un impatto sulla nostra, per quanto si cerchi di non identificarsi, però ha un impatto sulla nostra vita, sulla nostra salute mentale. E io mi sono ritrovato in un periodo della mia vita in cui ho attraversato un momento molto oscuro. Questo, diciamo, faccio full disclosure, nel senso che io parlo anche molto di salute mentale. Io sono convinto, nessuno questo me lo potrà mai dire, diciamo, con certezza clinica, però io sono convinto di aver sofferto di depressione fin da quando ero adolescente. Depressione che mi è stata diagnosticata solo nel 2023. Io sono nato nel 1985, quindi dal 1985, diciamo, sono diventato adolescente più o meno tra il 1995 e il 2000. Fatevi il conto di quanti anni probabilmente io ho avuto a che fare con la depressione sempre latente. E questo per dire, sono arrivato tra il 2000, quindi dal 2015 in poi ho avuto molti alti e bassi, periodi buoni, meno buoni, ma comunque sempre con questa, con quella che oggi definirei una depressione latente mai diagnosticata. E sono arrivato a un certo punto della mia vita nel 2020, che è stato ovviamente un anno che ha segnato le vite di tutte e tutti noi. Io sono arrivato ad agosto del 2020, che stavo attraversando un periodo completamente oscuro e molto deprimente, quindi dopo il lockdown, che ero rimasto da solo a casa, isolato per 3 mesi, lontano dalla mia compagna, insomma, era stata veramente tosta per la mia salute mentale. Insomma, arrivo ad agosto 2020, che un bel giorno mi letteralmente, questo non è figurato, cioè non è una cosa per raccontare, mi sveglio una mattina. Così, diciamo, venivo da queste lunghe settimane di tribolazione, di che cosa faccio della mia vita, chi sono io, dove vado, cosa è nel mio futuro e così via. Ancora a pensarci adesso mi viene l'angoscia. Mi sveglio una mattina, mi affaccio alla finestra, eravamo in Liguria, e faccio: ho capito qual è la mia missione nella vita. Ma è stata un'illuminazione, veramente. Io non avrei mai pensato nella vita che potesse esistere l'illuminazione di questo tipo. Io mi sono svegliato una mattina e ho detto: la mia missione nella vita è supportare l'arte emergente. Sì, d'amble. E perché proprio emergente? Perché, diciamo, ha iniziato a far parte poi di un ragionamento politico. Ho iniziato lì a intravedere la valenza politica di quello che stavo facendo. E cioè, parto dal presupposto che, e questo sono sempre grato ad Aurora Rossini per avermelo insegnato, l'arte è sempre politica. Non c'è arte che non sia politica. Per me l'arte è arte quando è arte di ricerca. Ok, quindi siamo, per me questo è potremmo aprire una discussione, ma su questa cosa. Potremmo parlarne solo di questo per giorni interi. Ripeto, io non sono un accademico, non sono un esperto, ho imparato. Cioè, lo dico perché in realtà penso che il valore dell'arte sia proprio invece anche il fatto che, cioè, quello che tu dicevi all'inizio, no? Ti facevi le vasche nelle fiere e sceglievi solo quello che emotivamente ti colpiva. E penso che l'arte possa essere fruita su tanti livelli, ma la bellezza dell'arte è che è un linguaggio che parla a tutti e tutte, quindi bambini, adulti, cioè a seconda del filtro che decidi di utilizzare, ti parla in qualche modo, in senso positivo o negativo. E più strumenti hai, quindi, come dire, più istruzione puoi avere rispetto a quel tipo di arte o a quell'artista, alla sua storia, eccetera eccetera, più lo fruisci su un fronte diverso. Però c'è proprio un livello di partenza di fruizione dell'arte che è quello emotivo, che prescinde da qualsiasi cosa di politico, accademico, insomma, razionale, ecco, o intellettuale, che secondo me è la bellezza anche dell'arte. Poi è ovvio che nel momento in cui decidi di approcciarti a questo mondo, più cose scopri, più diventa anche interessante. È una scelta che fai di fruire l'opera d'arte. Però penso che la bellezza dell'arte sia invece anche quello che dicevi tu all'inizio, cioè che semplicemente sia un linguaggio che ti parla le emozioni. E quindi, non lo so, poi capisco il tuo ragionamento di dire che poi a un certo punto tu hai fatto una scelta e quindi hai deciso che fosse un atto politico, e va benissimo, cioè non è un giudizio. Però non so se essere così manichea nel dire per me l'arte è solo quella che è politica, cioè non lo so, ecco, penso che sia diciamo, il tuo modo di approcciarti, la tua visione dell'arte, ma che non necessariamente sia quella che hanno tutti gli altri, ecco, comunque che la bellezza dell'arte sia appunto anche il fatto che ognuno possa fruirlo a seconda del suo personale, cioè è una cosa anche molto soggettiva e personale, ecco. Ne parlavo l'altro giorno con un ragazzo. Capiamoci sul termine politico. No, poi perché ti do ragione, cioè sono dalla tua in questo senso, proprio anche perché faccio e studio arte, però non so, ecco, mi piace invece anche l'aspetto di chi non fa niente e che viene semplicemente emozionato, si fa emozionare dall'arte. No, assolutamente, ma infatti secondo me si intrecciano, perché se partiamo dalla concezione di politico come ciò che rappresenta le relazioni tra gli esseri umani nel tempo in cui vivono, allora anche semplicemente nel momento in cui c'è una persona che non ha alcun tipo di conoscenza accademica o comunque intellettuale dell'arte di cui sta fruendo, ma prova un'emozione viscerale nei confronti dell'opera che sta osservando, fino a subire un attacco di una sindrome di Stendhal, diciamo. Anche quello per me è politico, perché quell'artista, adesso ovviamente immaginiamo l'artista storicizzato, non storicizzata, che magari 100 anni prima ha creato quell'opera, comunque stava raccontando in qualche modo la realtà del suo tempo, ciò che stava vivendo e le relazioni che aveva, le relazioni umane che viveva in quel tempo. Per cui comunque quell'emozione viscerale, immediata e non mediata dallo strato accademico, culturale e così via, è politica. Per questo io dico tutta l'arte è politica, perché comunque credo che abbia sempre questa valenza del creare una relazione tra teme che viviamo in questo momento insieme davanti alle opere che sono esposte qui ad esempio, e tra me e la persona che l'ha creata, che può essere morta 80 anni fa o che può essere ancora viva ma non è lì in quel momento con me. Quindi questo è un po' giusto per chiarire. Io il ti provoco. Lo so, ma io dovrò essere provocato, non ti preoccupare. Facevo l'analista. Capisco cosa vuoi dire. Per esempio, ti do ragione, di fatto sono anche d'accordo con la tua idea, perché è il modo in cui anch'io io fruisco l'arte. Però, tipo, se lo pensi su un bambino o una bambina, la stai educando alla politica. Ma politica ancora una volta non intesa nel senso dell'ideologia politica, ho capito cosa della, comunque, della relazione, sì, con, allora, con il mondo senso e con... Sì, ti do ragione, cioè sono d'accordo. Quindi anzi, adesso che in questo, si parla così tanto, no, di iniziare ad educare, finalmente se ne parla, no, di iniziare ad educare le bambine e i bambini alla sessuaffettività fin da quando si è piccole e piccoli, e la stessa cosa secondo me vale per l'educazione politica, nel senso del è intrecciato con il sapersi relazionare, sì, col senso con delle relazioni umane, con gli esseri umani. Sono d'accordo. È una decostruzione patriarcale anche, sì assolutamente, cioè, sì. Poi appunto ci arriveremo magari a parlare, come sappiamo che è un tema che mi sta molto a cuore. Quindi diciamo che tornando all'agosto del 2020, questa mattina, calda mattina di agosto 2020, affacciato a un balcone in Liguria, il progetto, che all'epoca non sapevo ancora che fosse un progetto, nasce con l'idea di raccontare il punto di vista di un collezionista emergente. Io ancora mi ritengo un collezionista emergente, probabilmente lo sarò per tutta la vita un collezionista emergente, se si può usare questa definizione. Raccontare il punto di vista di un collezionista emergente sull'arte contemporanea, in particolare sull'arte emergente. Così era nato Silent Art Explorer. E cos'è per te l'arte emergente? Cioè, lo specificherei per... Allora, se devo dare una definizione, vediamo un poco. Allora, per me prescinde dall'età. Per me l'arte emergente non ha indici anagrafici. Per me l'arte emergente è quell'arte... Parliamo di artista emergente, più che... prima del risultato del suo lavoro. Un artista emergente è una persona che si pone all'interno del sistema dell'arte contemporanea con allora sostanzialmente due fattori, cioè una notorietà molto limitata all'interno del sistema dell'arte, uno, B, tendenzialmente prezzi bassi, ok, relativamente alle medie di mercato qui che siamo abituati a vedere. Ci aggiungo la terza, che è sta sviluppando la propria ricerca. Ok, per me sono sullo stesso livello, non c'è una gerarchia tra queste. Sono tre fattori che si combinano. Poi, dal punto di vista della ricerca, anche l'artista super affermata che ha magari 70 e passa anni, no, può continuare a fare ricerca, non ci si ferma mai di fare ricerca nella vita. Per me anche la ricerca è un atto politico. Okay. Però questi sono è il modo in cui definirei un artista emergente. Probabilmente, se andiamo a chiedere a qualunque altra persona, avrà una definizione completamente diversa. Io la inquadro in questo modo. Perché? Perché mi serve poi per avere quantomeno un quadro di riferimento, quello che in anglosassone si definirebbe il framework, all'interno del quale andare a decidere le persone, i progetti da sostenere, le opere da acquisire, i progetti da sostenere. E alla fine, per quanto odi le definizioni, però le definizioni servono. Vabbè, poi magari anche non ancora influenzati da quel mercato dell'arte un sì, po'. Esatto, sì, no? Sì. Perché poi la questione del mercato dell'arte è che quando inizi a fare quel passaggio dall'emergente al mid-career, poi fino all'affermato e così via, allora lì le regole del mercato dell'arte sono completamente imprevedibili e insondabili da un punto di vista di fattori di influenza. Poi appunto entra in gioco se la critica o il critico d'arte super influente del momento ti fa una recensione in cui ti elogia, allora all'improvviso le tue opere un 100% dal costare 2.500 euro ti arriva a 10.000, così. Dirò secondo te è ancora così? Cioè, perché un tempo sicuramente era così, se penso sì, alla Galleria Apollinaire o al Giamaica, cioè o andavi lì o non eri nessuno. Però non so se oggi è ancora... Allora, cioè la figura del critico d'arte, non so se è ancora... c'ha una valenza così determinante. No, allora, cioè, mi sembra che in realtà sia diventato più determinante il ruolo di chi la fruisce l'arte e quindi anche di qualcuno che non ne sa niente. Cioè, mi sembra che gli artisti facciano molta fatica e le artiste cioè, nell'ottica di doverci guadagnare per insomma sopravvivere, magari incappino un po' nella problematica di dover assecondare un gusto o trovarsi un pubblico, ecco, più che... Non lo so, però è una mia impressione. No, è un'osservazione. Cioè, o forse è più il gallerista o la gallerista a determinare quel gusto che non il critico, intendo. Assolutamente, ottima osservazione. Probabilmente l'esempio del critico d'arte inteso alla vecchia maniera, tipo Jerry Saltz. Sì. Diciamo, ok. Forse solo Jerry Saltz. forse non è più tanto adeguata ai tempi che stiamo vivendo, al nostro contemporaneo, super contemporaneo. Allora, io sto vedendo, parlando proprio di gallerie, io sto vedendo che ci sono situazioni in cui artiste e artisti letteralmente fresche di laurea all'Accademia, Accademia di Belle Arti, qualunque essa sia, vengono già vendute da alcune gallerie a prezzi che quando li guardo ti dico bisogna che mi muovo a comprarla se voglio, perché altrimenti cioè, tra sei mesi non me la posso più permettere già questa persona, le opere di questa persona. Quindi sì, il ruolo della galleria assolutamente gioca ancora, cioè un peso, cioè gioca sempre di più un peso fondamentale da quello che io vedo, cioè nella comunità che frequento, ok, quindi in maniera del tutto empirica, senza avere dei dati alla mano. Mi piacerebbe tantissimo studiarmi tutti i report di settore e così via, ma non mi ci dedico più di tanto. E quindi questo assolutamente. E poi ovviamente non possiamo prescindere dal considerare comunque il fatto che, siccome ad oggi un artista che magari realizza delle opere d'arte che hanno diciamo che vanno molto sul, tendono un po' al figurativo, comunque sono diciamo, facilmente accessibili da un punto di vista estetico, il che non vuol dire che non abbiano una qualità di ricerca elevata, non lo esclude. Se sono brave e bravi a posizionarsi sul mercato, intendo, in questo caso intendo mercato come social media, ok? Sì, no, infatti. Assolutamente possono fare dei balzi spaventosi. E soprattutto, e questa è una cosa che io trovo sempre interessante, su cui ancora non mi sono mai veramente formato un'opinione completa, ma va bene così, cioè ci convivo tranquillamente, la figura ad esempio dell'artista imprenditrice o imprenditore la trovo molto affascinante, imprenditrice e imprenditore di se stessa, se stesso. Ad esempio qui mi viene in mente Iago, che è la definizione di artista imprenditore. Io Iago lo conosco personalmente, ci siamo conosciuti a Napoli alla fine del dicembre 2019, quando lui presentò il figlio velato nella sanità, in una chiesa della sanità. E lui ha sempre sostenuto questa cosa, che l'artista deve essere un'imprenditrice o un imprenditore, perché è l'unico vero modo per affermarsi, no? Per riuscire a raccontare al mondo qualcosa e riuscire ad autosostentarsi, perché veniamo ancora, no, da questa tradizione, da questa visione dell'artista come la visione bohemienne dell'artista, no? Che una mattina si sveglia, ha dormito nel suo studio, ha questa ispirazione, crea qualcosa, poi così fa questa vita molto sregolata. È una visione molto romantica, diciamo, ma passata. In realtà, di fatto, l'artista è una persona che molto spesso ha una partita IVA, è una professionista, fa due lavori contemporaneamente mentre cerca di portare avanti la propria ricerca, la propria pratica, e di fatto è una persona imprenditrice e deve sapersi vendere al proprio pubblico potenziale, al proprio pubblico, e proprio poi all'interno del pubblico vai a applicare un imbuto bello stretto in questo momento storico e ai tuoi potenziali acquirenti. E secondo te questo quanto condiziona la produzione artistica? Cioè il fatto di essere emergente, da una parte forse è ancora una fase, no, di produzione in cui forse si può seguire di più il proprio gusto personale nella creazione, piuttosto che immaginare già di essere a quello stadio di imprenditore o imprenditrice. E quindi mi chiedo, o invece c'è già appunto molto una concezione di, cioè quanto influisce il gusto del pubblico su quello che tu crei, secondo te, rispetto agli artisti e le artiste che hai conosciuto? Allora, cioè puoi fare anche degli esempi se vuoi, o anche in questo senso come si posiziona, cioè per esempio noi ci siamo conosciuti da Art Nobel e io penso che Matt faccia un lavoro molto diverso da altre gallerie milanesi, no? Cioè da una parte ha come un po' il lusso di potersi permettere di sperimentare di più, no? Forse di, non so, altre gallerie più storiche, più affermate, che vanno più sul sicuro in altre direzioni, cioè su artisti un po' più storicizzati, non so, un po' più già quotati, eccetera. E quindi anche per un giovane gallerista, non so se puoi esprimere un commento su questa cosa, come si posiziona quella figura in un contesto di promozione dell'arte e quanto è condizionata dal gusto del pubblico? Allora, bella domanda prima di tutto. Allora, per l'esperienza che io nella comunità di cui partecipo, alla vita della quale partecipo, raramente, quasi mai, ho avuto a che fare con artiste e artisti che hanno lavorato sulla base del gusto, cioè per soddisfare, per accontentare il gusto del pubblico di riferimento. Ho sempre incontrato persone che conducono la propria ricerca, credono in quella ricerca, poi la trasformano nel corso del tempo e così via, però non si fanno influenzare dal gusto. Mi sono imbattuto ad esempio, Art Nobel è uno di questi, con Matthew Nobel, è uno di questi esempi di gallerista che fa scelte molto radicali, coraggiose, perché porta da visibilità e vende arte di artisti che possono essere anche un po' più complessi da comprendere, no? Non sempre c'è una fruizione estetica immediata. Arte di ricerca molto profonda, infatti il progetto di Matthew Noble e tutte le artiste e artisti che lui propone, io nutro una grande stima per loro, perché appunto credono nel raccontare in maniera politica, fare un racconto politico del tempo che stiamo vivendo, a prescindere dalla facilità dell'accontentare il gusto di chi sta dall'altra parte. Ho avuto modo di incrociare sulla mia strada realtà che si basano un po' di più accondiscendere al gusto del pubblico, chiamiamolo il pubblico di massa, ma non so quanto di massa si possa parlare, e diciamo che me ne tengo lontano, ma non per una questione di snobismo, per una questione che io credo molto nel fatto che nella vita bisogna decidere a cosa dedicare le proprie energie e come attribuire le priorità al modo in cui distribuiamo queste energie. Per cui se io un giorno vado a vedere una mostra in una galleria che so che ha questo approccio appunto di cercare di accontentare il gusto del pubblico, automaticamente sto distogliendo le mie energie dal fare ricerca su qualche altra artista che magari mi ha invitato nel suo studio da mesi e so che fa un'attività di ricerca che potrebbe piacermi. È semplicemente questo. Poi, per amor del cielo, va bene tutto, nel senso che dico, se c'è una galleria, un artista che sviluppa la propria arte seguendo il gusto mainstream per una certa facilità di vendita, ma va benissimo, cioè, complimenti, perché riesce a vendere arte al grande pubblico. Però appunto che non so quanto sia, cioè, vero, nel senso che, però lo dico per la mia esperienza personale in questo mondo, è come se ci fosse, cioè, come posso dire, cioè, l'obiettivo diventa quello del guadagno, e nel momento in cui questa cosa entra in gioco diventa molto difficile, secondo me, distinguere ciò che è, come posso dire, di valore realmente e ciò che invece non lo è. e da una parte penso che se un tempo, però non ho vissuto un tempo fa, quindi diciamo solo dai miei studi posso dirlo, effettivamente il gallerista aveva un valore, cioè il gusto di queste persone era determinante nel dirti un Fontana, un Burri, non lo so, hanno più valenza di altri e quindi espongo quella cosa lì invece di altre, capisco l'avanguardia che questo tipo di arte mi sta portando, e c'era più il privilegio, tra virgolette, di potersi permettere di sperimentare di più. Oggi non mi sembra che essere determinante se invece il gusto forse più grezzo del pubblico, cioè la galleria non si permette, cioè ce ne sono poche che si permettono realmente di sperimentare delle avanguardie, se così vogliamo chiamarle, e mi sembra invece che ci sia molto più una schiavitù rispetto a quello che è più cool, o più, oltre il fatto che penso che peraltro Milano nello specifico sia schiava ulteriormente di altre grandi città che sono, non so, Londra e New York in questo momento, direi, e non lo so, che ci sia appunto un po' un cortocircuito in questo sistema, cioè che poi di fatto, non so, anche con questa cosa, cioè non lo dico, cioè ovviamente sono a favore dell'uguaglianza e dell'inclusività, però mi sembra anche che ci sia molto un discorso di... è una specie di seconda, cioè una nuova colonizzazione. Cioè io ti, come dire, proprio perché in questo momento fa un po' figo essere inclusivi, cioè figo nel senso che è parte di tutto un discorso anche di politica che può diventare mainstream, allora io decido di promuovere determinati artisti che vengono magari da realtà meno privilegiate nell'ottica di vincere, diciamo, il gusto di un pubblico meno consapevole. E però in questo modo io non sto realmente dando a quelle persone gli strumenti per farcela nel loro paese, gli sto dicendo: se tu vuoi fare l'artista e guadagnare devi venire da me nel mio contesto cosmopolita, nella mia galleria, nella mia grande città, e io ti aiuterò a cioè come dire, a promuoverti. E non so, questo per fare un esempio di un sistema un po' corrotto, credo, come su tante altre, cioè potrei dirlo su tante altre forme, anche su artiste donne, e se lo dico anche da donna, però cioè che ci sia poi ecco, una cosa che un po' corrompe in qualche modo una reale qualità dell'arte o una ricerca di un progetto, come posso dire, vero. Cioè poi non so se si può anche fare questa distinzione tra arte estetizzante è un'arte un po' più intellettuale, se vogliamo dire, cioè un po' più che dietro ha un progetto da raccontare, ecco, e che punta meno a un'estetica di bellezza di qualche genere. Dunque, un po' divagato. Tante cose. Allora, lo riporto dalla mia prospettiva di piccolo collezionista emergente. Mi chiedo, tu come fai a barcamenarti? Perché no, appunto, no? Sì, cioè, sì. È chiaro che ormai ci sei dentro da tanto e quindi immagino tu abbia una consapevolezza nell'approcciarti alle cose, appunto, magari quello spirito più naif dei primi tempi svanito. Però è complicato anche, penso. No, allora è complessissimo, cioè, soprattutto quando metti in gioco, cioè consideri i fattori, come dicevi tu, di colonialismo, marginalizzazione. E io, da persona privilegiata, da maschio, bianco, etero, cis, più tutta una serie di altri privilegi di cui ho potuto godere nella mia vita, ovviamente non sono nella posizione di poter raccontare la prospettiva di chi, delle persone che vengono attratte, delle categorie tipicamente marginalizzate che vengono attratte in questo sistema. Posso dirti, come giustamente tu stavi suggerendo, la prospettiva di piccolo collezionista emergente, consapevole finalmente dopo anni di decostruzione dei, ancora in corso, per tutta la vita sarà in corso, dei propri privilegi derivanti dal patriarcato, posso dirti che su questo faccio un lavoro di ricerca molto molto molto attento. Appunto, sono passato da una fase naif in cui compravo senza mai pormi la questione, adesso io, prima di acquisire un'opera, ci ragiono, se posso ragionarci anche un anno, ok? Dal momento in cui ho conosciuto l'artista fino al momento in cui decido di acquisire l'opera. Tanto più se quell'artista è rappresentata da una galleria, per esempio. Perché io le persone che lavorano in quella galleria, io le voglio conoscere, io voglio capire come a loro volta fanno ricerca, l'etica che applicano nel lavorare con le artiste e gli artisti. Per cui per me questo è fondamentale. E quindi il processo di collezionismo diventa anche in questo senso molto più politico, molto più profondo, ragionato, consapevole. E ad esempio, motivo per il quale una delle scelte che ho iniziato a fare ultimamente è il fatto che la maggior parte delle acquisizioni e dei finanziamenti che faccio vanno verso artiste che si identificano come donne, ok, artisti in generale della comunità LGBTQIA+, o comunque realtà che affrontano tematiche di genere, ok? Quindi io i miei soldi li concentro su questo, proprio perché dico l'unica cosa che posso fare io per in questo contesto, come giustamente dicevi tu, che tendere alla corruzione e a tante altre pratiche quantomeno scorrette nei confronti di tante categorie marginalizzate, e quello che posso fare io con i miei soldi che guadagno grazie al mio privilegio accumulato dai secoli di capitalismo e di patriarcato è di mettere letteralmente i miei soldi e le mie energie su progetti di questo tipo, arte, opere d'arte e progetti di questo tipo. È il minimo che posso fare. Vuoi darci degli esempi? Partiamo dall'ultima opera che ho acquisito, quindi Ambra Castagnetti, che adesso non è già più emergente in realtà, rappresentata dalla Galleria Francesca Menini. E Ambra Castagnetti è una persona che insomma fa in maniera esplicita si fa portavoce della comunità queer e affronta tema in maniera in alcuni casi molto radicale tematiche legate al corpo, al rapporto del corpo, rapporto tra i corpi e anche all'ibridazione tra le specie e così via. E lei è un'artista che ho iniziato a seguire qualche anno fa, che ho seguito con molta attenzione, e appunto attraverso la Galleria Francesca Menini. E quando ho capito che il tipo di progetto, il tipo di ricerca che lei porta avanti è una ricerca che ha una grande valenza di racconto del tempo che stiamo vivendo, dello spirito del tempo che stiamo vivendo, e allora dopo molto tempo di riflessione ho deciso di acquisire una sua opera, un disegno con pastelli a olio e cera, se non mi sbaglio, su carta, un foglio A4, che ha fatto nel 2021 a Parigi e che praticamente è stato poi un disegno preparatorio di una performance a cui purtroppo io non ho avuto modo di assistere, che ha fatto alla Fondazione Pini nel 2024. Quindi questo è un esempio. E la performance si chiama Compost Ovnik e si trova online, c'è il video online. È una performance, cioè, che anche vista solo in video, cosa ho fatto io, è ha un impatto molto forte e si vede, partendo da quel disegno, si vede tutto il processo creativo, come si è evoluto fino ad arrivare alla realizzazione della performance. 3 anni di elaborazione per arrivare, partendo da una serie di disegni, arrivare poi alla performance. Quindi, un esempio, Ambra Castagnetti è una persona che può rappresentare questo tipo di approccio. Il mio approccio al collezionismo, però, ripeto, lei già non è più emergente. Molto semplicemente, io non mi posso già permettere le sue sculture, sono al di fuori del mio range, mi posso permettere solo i suoi disegni. Okay. Un'altra persona di cui ho iniziato a collezionare opere qualche anno fa, che all'epoca era già un po' oltre l'emergente, era Eva Lulasci, una artista con cui si è poi creata un'amicizia e così via, che studia, basa tutta la sua ricerca sostanzialmente sul rendere la figura femminile soggetto e non più oggetto di osservazione, o comunque mette in scena delle rappresentazioni che raccontano in maniera molto critica la posizione della donna all'interno del contesto patriarcale. Lei aveva iniziato facendo una ricerca sugli archivi dei documentari dell'Albania comunista, e prendeva dei frame di questi documentari e li reinterpretava ponendo al centro di questi frame, di questi documentari, di una dittatura, sostanzialmente un regime autoritario, ponendo le donne al centro di queste rappresentazioni, al centro di questi frame. E una delle prime mostre che lei, diciamo, le prime mostre più importanti personali che ha fatto è stata proprio questa mostra che si chiamava Libere Desideranti, e sostenuta poi anche da Giuseppe Iannaccone, che è stato un suo grandissimo collezionista. E io all'epoca comprai, era il 2021, comprai questa sua piccola opera 20x20 che si chiama Sveglia, col punto esclamativo, in cui c'è raffigurata questa donna ripresa in primo piano, diciamo comunque un piano molto stretto, con le mani giunte, che è in questo atto di alzarsi da quello che sembra essere un letto, un divano, comunque si è appena svegliata. E Eva Lulasci stessa, quando mi ha scritto una piccola didascalia per raccontare l'opera, sostanzialmente era il racconto di questa didascalia era svegliati dal patriarcato, per riassumerla in breve, svegliati dai luoghi comuni, svegliati dallo sguardo che ti è sempre stato imposto e sii libera e desiderante. E quindi questo è un altro esempio. E però, se andiamo invece sul super emergente, c'è un'opera cui tengo molto, che è una ci sono due opere cui tengo molto, che una è di Anna Vassena, In arte a Vassena, è una opera che ho acquisito quest'anno. È stata la prima opera che ho acquisito quest'anno 2025, e anche questa ha una valenza politica secondo me molto importante, perché Anna Vassena conduce questo progetto che si chiama Ubuntu Project, e che è, partendo dal concetto di Ubuntu, che è una è un concetto, adesso se non vorrei sbagliarmi, dell'Africa subsahariana, che significa sostanzialmente io sono perché tu sei. È una visione comunitaria. Adesso potrei aver detto qualche strafalcione di sicuro, però sostanzialmente è un concetto che cerca di rappresentare l'individuo nella sua valenza come parte di una comunità. Ok? E in tutto, diciamo, in questa sua ricerca, Anna Vassena ha realizzato una serie di 80 opere, che sono un'installazione unica, che partono dalla sua impronta digitale, okay, che lei ha impresso su un piccolo foglio di carta, poi ha scansionato questa impronta digitale, l'ha ingrandita di non so quante volte e ha preso ogni piccolo tratto della sua impronta digitale e l'ha sostanzialmente trasformato in tante, ogni tratto dell'impronta digitale l'ha trasformato in tante altre piccole, in tante altre opere, sono tendenzialmente della dimensione di una 4 file, okay, che compongono un'installazione, quindi una parete intera, immagino una parete di 80 opere, in cui ogni opera rappresenta un pezzettino di questa impronta digitale, che sta esattamente a rappresentare come l'identità di ogni persona si costituisce di ciò che della comunità che la circonda, per esempio. Quindi, ed è molto bella anche perché quest'opera è fatta di è molto materica, è fatta di un materiale che si chiama carbondum, se non mi sbaglio, che è letteralmente carbonio, che è un modo di presentarsi del carbonio, e viene utilizzato anche per asfaltare le strade, per capirci, ma ha questa caratteristica che è molto brillante sotto la luce diretta, e quindi è un po' come se c'è questa corrispondenza tra l'identità nella comunità, ma anche l'identità in quanto esseri biologici fatti di carbonio, cioè a base di carbonio. Quindi questa è una, e poi racconto la quarta, poi raccontiamo solamente di queste cose. È un'opera di Rebecca Moccia, che è un artista, adesso possiamo definire un artista emergente, ma comunque si sta affermando. E Rebecca Moccia è una persona di cui ho nutro una stima profondissima. Lei fa una ricerca di una profondità e di una metodicità quasi scientifica, e quando dicevo posso impiegare anche un anno a acquisire un'opera, questo è l'esempio tipico, perché quando ho visto per la prima volta l'opera di Rebecca Moccia era il MIART del 2023. E mi hanno fatto vedere tutta questa serie di opere che stava facendo con una macchina termografica. E dissi, ah, bello, interessante. Ecco, questa è la Galleria Mazzoleni. E è rimasto lì nel mio retrocranio. Facciamo flash forward di un anno, MIART del 2024, torno a visitare la Galleria Mazzoleni, mi fanno vedere un nuovo corpus di opere di Rebecca Moccia, sempre in questa ricerca che si chiama sostanzialmente Ministry of Loneliness, che è, diciamo, il grande ombrello di ricerca che lei ha condotto sulla solitudine come concetto politico, quindi non come la solitudine intesa in senso individuale, come emozione, sentimento individuale, ma come la solitudine come atmosfera che avvolge tutta la nostra comunità, la comunità occidentale quantomeno, e quindi ha un impatto politico sul nostro agire. Lei è andata in giro per il mondo a indagare, a ricercare sui ministeri della solitudine. E che sono delle cose, esistono dei ministeri in Inghilterra e in Giappone che sono dedicati alla indirizzare il problema della solitudine, e ha cercato di capire da un punto di vista politico come viene indirizzata, come viene gestita la solitudine. Da ciò è nato tutto un corpus di opere, principalmente con queste termografie che le ha scattato in giro per il mondo. E mentre mi stavano mostrando le varie ultime opere che aveva fatto, mi stavano semplicemente facendo scorrere davanti un PDF, faccio fermo, che cos'è questo? Mi fa vedere un'opera, fotografia, della serie Cold as You Are, che è praticamente una fotografia che Rebecca Moccia ha scattato a una copia del libro The Human Condition di Hannah Arendt, una copia di questo libro appartenuta all'autrice stessa, su cui l'autrice aveva fatto delle annotazioni a mano, e lei ha scattato una foto a una pagina di questo libro. Il caso vuole che io in quel periodo della mia vita stessi leggendo esattamente quello stesso libro, per cui ho detto fermi tutti, lo prendo. Quest'opera, non sapevo quanto costava, ho detto quest'opera la prendo io. Vuoi leggercela? Adesso leggo. So che volevi leggerla. No, poi leggiamo. Allora, poi mentre stavo, non ero ancora arrivato alla pagina che aveva fotografato Rebecca Moccia. Quando ci sono arrivato, le ho scritto: finalmente sono arrivato alla pagina che hai fotografato. Ma non leggerò la pagina che aveva fotografato lei. Ma vuoi dare un contesto su chi è Hannah Arendt, giusto per chi non ha Hannah Arendt, Hannah Arendt, ok, allora leggo la sua biografia dal retro del libro, perché non mi voglio assumere la responsabilità di raccontarla in maniera non appropriata. È stata una filosofa della teoria politica, sostanzialmente, nata ad Hannover nel 1906, morta a New York nel 1975, e ha prodotto una vasta letteratura che va dalla teoria politica alla filosofia, dalla storia della cultura ebraica fino alla letteratura moderna, quindi un corpus di opere immenso. È stata una pensatrice rivoluzionaria, radicale nel modo in cui rifletteva sull'epoca, sul contemporaneo, e difatti anche questo libro che è stato scritto negli anni 60, e cioè per l'epoca era visionario, portava avanti sostanzialmente una visione di come l'agire dell'uomo nel mondo va ad erodere prima la sua capacità politica, e come questo poi va ad avere un impatto su tutto l'ecosistema terra di cui fa parte. E c'è un passaggio, berrò un poco d'acqua prima di leggerlo, di cui io sono assolutamente innamorato, che è un passaggio che fa parte della parte quarta appunto Vita attiva, la condizione umana, e la parte quarta si chiama L'opera, e ed è il capitolo 23esimo, che si chiama La permanenza del mondo e l'opera d'arte. Ora, premettiamo che fin qui l'autrice ha fatto tutto un ragionamento su ciò che fa l'uomo nel mondo, e come le cose che fa l'uomo nel mondo permangono nel mondo e modificano la realtà. E come descrive l'arte, io lo trovo illuminante. Per cui ci prendiamo adesso magari qualche minuto, ve la leggo con... lentamente vi leggo questo passaggio che io letteralmente adoro. La permanenza del mondo è l'opera d'arte. Fra le cose che danno all'artificio umano la stabilità, senza cui non potrebbe mai essere una dimora sicura per gli uomini, c'è una quantità d'oggetti che, rigorosamente parlando, sono privi di qualsiasi utilità. E, per di più, poiché sono unici, non sono scambiabili e quindi sfidano il livellamento in base a un comune denominatore come il denaro. Se entrano nel mercato di scambio, il loro prezzo può essere fissato solo arbitrariamente. Inoltre, il giusto rapporto con un'opera d'arte non è certamente quella di usarla. Essa, al contrario, deve essere allontanata accuratamente dall'intero contesto degli oggetti d'uso perché trovi il proprio posto nel mondo. Analogamente, deve essere anche sottratta alle esigenze e bisogni della vita quotidiana, con cui ha meno contatto che con ogni altra cosa. Se questa mancanza d'utilità sia sempre stata pertinente agli oggetti d'arte, o se l'arte servisse originariamente ai cosiddetti bisogni religiosi degli uomini, come gli oggetti d'uso ordinari servono ai bisogni più ordinari, esula dalla nostra discussione. Anche se l'origine storica dell'arte fosse di carattere esclusivamente religioso e mitologico, il fatto è che l'arte è sopravvissuta gloriosamente alla sua separazione dalla religione, dalla magia e dal mito. A causa della loro mirabile permanenza, le opere d'arte sono le più intensamente mondane tra le cose tangibili. La loro durevolezza non è pressoché toccata dall'effetto corrosivo dei processi naturali, poiché non sono soggette all'uso delle creature viventi, un uso che in realtà, lungi da realizzare il loro scopo intrinseco, come lo scopo della sedia realizzato quando ci si siede sopra, può soltanto distruggerle. Così la loro durevolezza è superiore a quella di cui tutte le cose hanno bisogno semplicemente per esistere e può mantenersi per intere epoche. In questa permanenza, la stabilità del mondo delle cose fatte dall'uomo, che non può mai essere assoluta perché il mondo è abitato e usato dai mortali, ottiene una propria rappresentazione. In nessun altro luogo la mera durevolezza del mondo delle cose appare nella sua purezza e chiarezza, e in nessun altro luogo questo mondo si manifesta in modo così grandioso come la dimora non mortale per degli esseri mortali. E qui mi commuovo. È come se la stabilità del mondo fosse divenuta trasparente nella permanenza dell'arte, come se una premonizione di immortalità, non quella della vita o dell'anima, ma di qualcosa di immortale ottenuto da mani mortali, fosse divenuta concretamente presente, per risplendere ed essere vista, per risuonare ed essere udita, per parlare ed essere ascoltata. Io, quando ho letto questo passaggio, ho cambiato completamente il mio modo di vedere l'arte. Ed ho capito anche un pezzo in più della mia missione, in realtà, nel mondo dell'arte. Perché ho capito che quello che faccio è una può essere una missione di lunghissimo periodo, che ho iniziato io, ma che vorrei che non finisse con me. Infatti Silent Art Explorer ha il progetto, cioè, ha come nome Silent Art Explorer e non il mio nome, perché io non voglio che sia il mio progetto. Io voglio che diventi un progetto comunitario, proprio in quest'ottica in cui l'arte attraversa le generazioni, l'arte sopravvive a chi la colleziona, e io in tutto questo processo poi che si è accompagnato con la decostruzione delle mie strutture patriarcali e così via, che sono anche molto legate al senso del possesso e così via, io a un certo punto mi sono detto: io non sono il proprietario, io non posseggo queste opere, io sono un custode temporaneo di queste opere che ho acquisito con i soldi che guadagno, con il privilegio che ho accumulato nella mia vita, e il mio compito è quello di traghettare queste opere, che sono il racconto dello spirito del tempo presente, nel tempo, verso le prossime generazioni. Quindi mi sono detto: il mio sogno un giorno è quello di istituire una fondazione mi sono detto entro quando avrò 80 anni, se ci arrivo, una fondazione che porti avanti questo progetto attraverso le generazioni, proprio con l'ethos di ricercare l'arte emergente che rappresenta lo spirito del tempo presente, di anno in anno, di decade in decade, custodirla, valorizzarla e tramandarla con un racconto quanto più inclusivo possibile della storia del tempo presente. E soprattutto un'altra cosa che di cui io sono profondamente convinto, in cui credo, è che laddove fino a tempi recenti comunque il collezionismo è stato visto come un'attività tramandata per filiazione, no, per diritto di sangue, no, ius sanguinis del collezionismo, del possesso dell'arte per diritto di sangue, io non credo in questa cosa. Io credo che l'arte vada tramandata per kinship, utilizzando un termine coniato da Donna Haraway, quindi per affinità elettiva, affinità di intenti. E quindi io non intendo tramandare le opere che custodisco alla mia linea di sangue, anche perché probabilmente non ne avrò una, non ne ho e probabilmente non ne avrò una. Io, ho detto per la serie questa, this bloodline ends with me, no? Ma voglio che questo, sia le opere che il sostegno dei progetti venga tramandato a persone che vedono nello stesso modo, nel mio stesso modo, l'arte. Non perché il mio modo sia giusto, ma perché mi sono accorto che certo, che può far bene, certo. Cioè che è un modo di approcciarsi all'arte che può far del bene. E quindi il mio sogno è che quando avrò 70 anni e andrò alle inaugurazioni, parlerò con persone di 25-30 anni e dirò: oh, ma tu lo vuoi portare avanti questo progetto? Esatto. E quindi, appunto, lasciare andare, abbandonare il senso del possesso e creare un senso più comunitario. Creare un senso comunitario, ciò di cui parlavamo prima, la questione di creare un amore incondizionato all'interno della comunità di cui si fa parte e prescindere dal concetto di ritorno. Certo. Su tutta la questione del collezionare arte, ah sì, perché fai l'investimento oggi, tutte le persone quando le dicono: sì, perché fai un investimento poi tra tot anni, dico: no, io non compro per rivendere, cioè, io compro per tenere e tramandare. A me non importa, i progetti che finanzio nella maggior parte dei casi non mi danno alcun ritorno. Ti danno un ritorno non economico. A me personalmente non, a meno nel caso in cui, non so, un artista decida di, come è successo per esempio per quando ho finanziato lo spettacolo teatrale Love Lies Bleeding, quello che sono venuta a vedere quello che sei venuta a vedere della compagnia teatrale Phoebe Zeitlin, che io avevo già visto, non sapevo che, cioè l'avevo visto anni prima ma non sapevo che tu c'entrassi. Vedi, il fato opera e l'universo operano in modi misteriosi. E anche lì, cioè, quando Phoebe Zeitgeist, nella persona di Giuseppe Isgro, che è una delle persone fondatrici, cofondatrici della compagnia teatrale, venne a propormi il sostegno dello spettacolo, mi feci i miei ragionamenti, mi feci i miei conti, perché ho sempre il mio budget che mi faccio a inizio anno e capisco quanto posso mettere in arte ogni anno a seconda di come sta messo il mio conto in banca, e mi dissi: ok, vi do questa cifra, ma non mi aspettavo letteralmente nessun ritorno, ma non perché sono un eroe, ma perché è un esercizio di dare amore in tutti i modi che si può, in maniera incondizionata, per costruire una comunità. Poi Giuseppe Isgro, Phoebe Zeitgeist, in collaborazione con Giovanni De Francesco, che è l'artista che ha realizzato le opere di scena dello spettacolo, e infatti io ho finanziato la realizzazione delle opere di scena dello spettacolo, hanno deciso di ricambiare il mio amore, possiamo dire in questo senso, il mio gesto, il mio supporto, con un'opera di Giovanni De Francesco. Però non era prevista come... Sì, diciamo, non era il tuo intento all'inizio. Non era, dal mio punto di vista, non è che siccome io volevo l'opera di Giovanni De Francesco, allora ho messo i soldi. E io credo che se si iniziasse a ragionare in maniera un po' più ampia in questo modo... È un sogno. Forse si potrebbe fare, si potrebbero costruire delle realtà molto più funzionali, molto più inclusive. Si potrebbe dare voce a quella creatività che di fatto non ce l'ha, perché appunto è succube di un mercato diverso, cioè di un'ottica diversa. Sì, il fatto poi è sempre la... L'opera d'arte racconta lo spirito del tempo presente, ha un valore per l'umanità in questo senso, però di fatto la gente ci deve campare con le opere d'arte. L'artista ci deve campare, chi ha la galleria ci deve campare, c'è tutto un sistema che ci deve campare, la curatrice ci deve campare, sul testo che scrive e così via. Quindi sarà sempre inevitabile che ci sia un intreccio con la parte di profitto. Sì, no, vabbè, certo. Ovviamente, però il ragionamento che faccio io è: se un po' più collezioniste e collezionisti iniziassero a ragionare in questo senso, in cui io lo faccio perché, al di là del fatto che può essere un investimento che tra 10 anni mi vale 100 per... ma lo faccio perché sto contribuendo a costruire una comunità e sto immettendo amore nel sistema. E potrebbe cambiare sicuramente un'ottica di produzione e di, come dire, di tramandare l'arte. Sì, esatto. Abbiamo una grossa responsabilità, cioè chi come me colleziona ha una grossa responsabilità. Io lo dico, etica e morale. No, certo, sono d'accordo. Perché di fatto, dove le persone a cui decidiamo di dare supporto, a cui decidiamo di dare i nostri soldi, sono le persone a cui diamo spazio, sono le narrazioni a cui diamo spazio. Il mondo è una narrazione, certo. La realtà è una narrazione, quindi... No, volevo solo sapere se c'era qualcuno che voleva fare delle domande o... Esatto, la domanda la faccio a te, quindi prendo l'altro microfono. Vorrei farti tante domande, ma ti faccio solo una delle tante. Penso che per gli artisti contemporanei, giovani artisti contemporanei, effettivamente sia molto difficile entrare nel mercato dell'arte, perché almeno qui a Milano li vedo abbastanza isolati. Quindi volevo chiederti appunto concretamente quale, diciamo, iniziative intraprendi per rafforzare e diffondere questa comunità dell'arte, perché io la comunità dell'arte ancora, soprattutto a livelli diciamo emergenti, non la vedo tanti artisti interessanti ma un po' isolati tra di loro. Forse da letteratura negli anni 70 poteva essere diverso, c'erano più gruppi artistici. Forse in contesti diversi da Milano, a Venezia c'è una comunità magari di giovani artisti emergenti che vuoi perché nell'accademia lavorano scambiandosi tra esperienze tra di loro, anche tra generazioni diverse, è diverso. Ma come funziona a Milano? Allora, bella domanda anche questa, importante. Non so, Laura, se tu vuoi aggiungere qualche commento. Allora, cosa faccio? Allora, io mi muovo su diverse direttrici, al di là della questione del metterci i soldi. Allora, ci sono delle artiste e degli artisti con cui stabilisco una, un rapporto umano molto profondo, e a cui io dico: sai che io ci sono. Sono poche, perché ovviamente con poche persone, cioè, umanamente è possibile riuscire a stabilire dei rapporti così profondi. Sai che io ci sono, in qualsiasi momento tu hai bisogno di un confronto, un consiglio, ti vuoi sfogare, vuoi raccontarmi un progetto, vieni da me. Non sono per forza un esperto, però nella mia vita ho sviluppato una, diciamo, un modo di ragionare, una forma mentis che mi consente di prendere una situazione, spacchettarla, analizzarla nelle sue parti e cercare di trovare, insieme alla persona che, con cui sto parlando, di trovare un, una strada. Non la strada, una strada per fare le cose che vuole fare. Quindi questo è un modo. Poi io adoro fare da collante tra le persone, per cui quando vedo una persona, quando una persona, un artista mi parla di un progetto che mi dice: ah, io ho questa cosa che ho da anni che voglio fare, non so dove farla, non so con chi farla e così via, dico: ok, ci penso. Spesso la connection mi viene istantaneamente, quindi ci ragiono e poi torno e dico: guarda, poi, altrimenti faccio le mie ricerche e poi torno indietro. E l'ho fatto in più di un'occasione e sono venute fuori delle cose divertenti. Penso a Caterina Ruisch-Voltolini, che è un'artista che è diventata una carissima amica, e che mi raccontava proprio, mi diceva questa cosa: io ho questo progetto che voglio proprio fare, non so come farlo, dove farlo, vorrei farlo a Napoli, ma tu conosci qua? Ci abbiamo messo 2 anni, ma alla fine praticamente l'ho messa in contatto con un altro carissimo amico di Napoli che lavora nel mondo della cultura, che è Nicola Ciancio, e insieme a Nicola Ciancio e a tutto l'ecosistema dell'arte contemporanea di Napoli, Caterina Ruisch-Voltolini è riuscita a portare questo progetto, a installare questo suo progetto a Napoli, nella chiesa delle anime del purgatorio che si trova in via dei Tribunali, per esempio. E mi è capitato e mi continua a capitare così, continuamente. E ma secondo me è proprio un po' un po' quello che diceva prima di cioè forse appunto cambiare ottica in questa, diciamo, promozione dell'arte, quindi forse avere un po' più di consapevolezza nelle scelte che si fanno e di un fine che abbiamo nel collezionare, che magari non è solo quello di abbellire le nostre abitazioni, ma appunto magari di avere una sorta di missione, come dice Giulio, di creare un senso di comunità in qualche modo, comunque di non essere troppo naif nel collezionismo, né nel senso di solo collezionare per passione, né al contrario di farsi un po' abbindolare da un sistema di gusto un po' più mainstream, non so, ecco, forse un po' cercare, cioè è proprio una dedizione, cioè penso che la cosa interessante di Giulio sia proprio che per quanto lui faccia un altro lavoro, di fatto è un lavoro anche questo, cioè è tutto uno studio, una ricerca, un conoscere gli artisti, cioè impegnarsi in questo sistema in un modo attivo. Sì, sì, esatto, è l'impegno, cioè, appunto, di questo lavoro, poi io definisco lavoro ciò che viene pagato, in questo caso è una passione perché nessuno mi paga per farlo, però è, sì, creare comunità è anche questo, no? Cioè condividere una visione, condividere una missione, coinvolgere le persone e cercare di mostrare alle persone che è possibile cambiare il sistema in cui agiamo. Perché l'idea di fare l'outsider, no, io agisco fuori dal... è molto difficile, conosco persone che lo fanno, ma è difficile riuscire a campare da outsider. Io sono dell'idea che nel momento in cui ti trovi nel sistema capitalista e patriarcale, la cosa più semplice, tra virgolette, che puoi fare, la cosa più immediata che puoi fare è agire dall'interno e utilizzare il sistema, cioè le dinamiche di quel sistema Per giocare il tuo gioco, per decostruirlo. Certo, per decostruirlo, sì. Cioè, è esattamente, secondo me così si riesce a superare quell'isolamento di cui parli. Perché ancora una volta, e anche questo sono dei concetti che emergono molto da questo libro di Hannah Arendt, dalla condizione umana, c'è una condizione di isolamento, no? Che deriva dall'individualismo, che deriva da tutta l'impostazione patriarcale e capitalista della società in cui viviamo. Ma se noi prendiamo tutto ciò che tutte le risorse che sono a disposizione all'interno di questo sistema e le rigiriamo per creare questa comunità, per immettere amore nella comunità, nel senso che parlavo prima, che nel senso poi di quest'altro libro che ho portato di Jennifer Guerra, che è Il capitale amoroso. Quindi laddove iniziamo a intendere l'amore come un atto politico capace di cambiare la società, semplicemente i soldi che io guadagno da questo sistema io li rimetto nel sistema dell'arte. Il mio sogno, cioè, o meglio, non il mio sogno, il mio obiettivo dei prossimi 10 anni, adesso ne compio 40 il 27 luglio, il mio obiettivo da qui a quando avrò 50 anni è fare la scalata manageriale nel privato, quindi tornare a lavorare nel settore privato, fare la scalata manageriale, se ci riesco, arrivare ad avere accesso a un reddito elevato, dico sempre un reddito indecente, tenermi per me quello che mi serve per campare, per avere una vita dignitosa, e adesso la maggior parte rimetterlo tutto nel sistema dell'arte e della cultura. Punto. Utilizzo il sistema del capitalismo, il profitto che genera il capitalismo, per sostenere un sistema che, perlomeno in Italia, non ha mai avuto, per il momento ancora non ha, il sostegno che dovrebbe, soprattutto quando parliamo di arte emergente, che è appunto l'arte che, certo, che racconta il tempo che viviamo. Quindi speriamo. Speriamo, sì. Ne parlavo con un artista ieri sera, con Matteo Capriotti, che mi diceva sono tornato a coltivare la speranza. E questa cosa mi ha illuminato, mi ha commosso. Speriamo. E su queste note, a meno che non vuoi aggiungere altro o qualcun altro voglia dire qualcosa... No, io tengo solo appunto a ringraziare, diciamo, per come appunto Aurora Rossini, come dicevo, certo, che la persona con cui ho cofondato questo progetto, che è stata sostanzialmente cofondatrice e consulente progettuale, che ha avuto un ruolo fondamentale nella nascita e dello sviluppo di Silent Art Explorer sotto tantissimi punti di vista, e che io ancora oggi ringrazio per il lavoro che abbiamo fatto insieme e per tutto quello che ha portato a questo progetto. E è l'unica cosa che vorrei dire. Allora invece io ringrazio te, ringrazio a te. Xalge, ringrazio Giovanni, senza cui questo podcast non avrebbe vita. E ringrazio tutti voi per essere stati qui e niente, ci vediamo prossima stagione. Grazie Laura. Grazie a voi.